discende del colle eletto del beato Ubaldo. Fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo. Da porta sole e di retro le piange, per grave gioco nocera con Gualdo. Di questa costa là dov'ella frange, più sua rattezza nacque al mondo un sol. Come fa questo talvolta di gange? Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso la lor concordia e i lor lieti sembianti. Amore e meraviglia e dolce sguardo facevano essere cagione di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace, corse e correndo gli parve esser tardo. Negli gravò viltà di cor le ciglia per esser figlio di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma legalmente sua dura intenzione. Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil vita, meglio in gloria del ciel si canterebbe. Del martiro nella presenza del soldan superbo predicò Cristo e gli altri che il seguiro nel crudo sasso intratteve ed arro. Da Cristo prese l'ultimo sigillo. Tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercè, che il meritò nel suo farsi fusillo ai frati suoi siccome giusta rede. Raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede, del suo grembo l'anima preclara muoversi volle tornando al suo regno, e dal suo corpo non volle altra bara.